in primo piano. Intanto dei giornali in edicola oggi non troverete il Corriere della Sera, ve lo dico perché c'è uno sciopero annunciato ieri e oggi non è dunque in edicola per alcuni problemi, dissidi, alcune nomine interne fatte dal direttore De Bortoli che non sono piaciute alla redazione. Il Corriere dunque è in sciopero, non lo trovate. Sono due le notizie che prendono le prime pagine dei giornali, vale a dire le dimissioni di Montezemolo alla presidenza della Fiat, la successione con John Elkann e la politica. John Elkann, presidente della Fiat, il Sole 24 Ore, Montezemolo lascia ma rimane nel gruppo, finito il ruolo di traghettatore. Anche la Stampa, Elkann alla presidenza Fiat, e tra l'altro la Stampa col suo direttore Mario Calabresi intervista Montezemolo. Poi invece la politica, per Repubblica, Fini, resto nel PDL, darò battaglia, Berlusconi faccia il suo partito. Libero, Silvio, non cascarci, riferito ovviamente alla vicenda con Fini. Per il giornale addirittura Fini disperato perde i pezzi. PDL lo strappo di Fini, il titolo al Messaggero. L'Unità mette insieme sia Montezemolo che Fini in una foto. Guida a destra. Questo è il titolo dell'Unità, mentre per il Fatto caccia ai finiani, Fini chiama raccolta i suoi ma li blinda, teme la campagna acquisti di Berlusconi. Allora, partiamo dalla vicenda Fiat. Come detto ieri, Montezemolo ha annunciato le dimissioni che verranno formalizzate oggi in occasione del Consiglio d'amministrazione che approverà anche la trimestrale del Lingotto. Oggi è anche il giorno della presentazione del piano strategico fino al 2014 da parte del gruppo. Una staffetta per la sfida globale, questo è il commento di Alberto Orioli in prima pagina del Sole. In tutte le staffette, scrive Orioli, è il passaggio del testimone il momento più delicato. Montezemolo ieri ha lasciato la presidenza della Fiat a John Elkann. Traghettamento completato, ha detto. 6 anni e mezzo fa la famiglia Agnelli vide la Fiat nella massima tempesta. Il gruppo doveva gestire un complesso divorzio dal colosso GM e dalle banche, che col prestito convertendo da 3 miliardi avrebbero potuto sfilare l'azienda ai suoi tradizionali azionisti. Allora la Fiat perdeva 1,5 miliardi a livello consolidato. La cura Montezemolo-Marchionne, dopo 3 anni, aveva già riportato l'azienda all'utile di 2 miliardi e a 500 milioni di auto vendute in più. Ora appunto, scrive Orioli, il passaggio di testimone. Ed è proprio l'ascesa di John Elkann a cui toccò Umberto Morente il compito di chiedere a Marchionne se accettava la carica di amministratore delegato, quella che più disegna la nuova puntata della prima dynasty italiana. Sulla tolda sale il nipote di quel nonno Gianni, ultimo re d'Italia, che lo scelse come successore già quando non aveva nemmeno dato il primo esame al Politecnico. Insomma, la sfida per Alberto Orioli è proprio questa, insomma, di un Agnelli che torna al comando. Piaccia o no, infatti, è la sfida di sempre, la stessa che la celebre istitutrice inglese Miss Parker rivolgeva quotidianamente a Gianni e a Susanna. Don't forget, you are an Agnelli. E allora, questo è Alberto Orioli. Come detto, Mario Calabresi, il direttore della Stampa, intervista Montezemolo, incontrato un'ora dopo l'annuncio delle dimissioni nel suo ufficio nella palazzina storica del Lingotto, dove, scrive il direttore della Stampa, ogni oggetto gli ricorda un momento di questa avventura. Sono abituato a dire che bisogna sempre guardare avanti, esordisce così Montezemolo, ma oggi non posso partire se non guardando indietro. A quel drammatico fine maggio 2004, la Fiat vicina al fallimento, la pressione costante delle banche, la famiglia aveva perso Umberto Agnelli, una delle persone a cui ero più legato, non c'erano più leader, e ricevetti la richiesta di Gianluigi Gabetti, scelsero me perché tra gli esterni ero quello più di famiglia. Ora le due condizioni che avevano spinto a nominarmi sono venute meno, l'azienda è sana e competitiva e adesso c'è una componente della famiglia che ha le carte in regola per assumersi la massima responsabilità. Ecco, allora è giusto che facessi un passo indietro. Quando ha deciso, poco meno di un mese fa, dice Montezemolo, se mi guardo indietro in questi 6 anni ricordo l'angoscia delle prime notti che mi toglieva il sonno, un incontro difficilissimo con le banche nel maggio del 2005. Le soddisfazioni più grandi invece il ritorno della Fiat tutta italiana quando chiudemmo la partita con GM, la grande soddisfazione per l'accordo con Chrysler e poi quando Barack Obama, presidente, parlò della Fiat come di un esempio di tecnologia. La domanda chiave, quella che si chiedono tutti, farà ora politica? Risponde così Montezemolo, devo dire proprio di no. Per gli impegni che ho, vorrei provare a vivere un po' meglio dopo anni di fortissimi sacrifici fisici e familiari. Quello che è certo è che il fatto di non essere più presidente della Fiat mi permetterà di esprimere le mie opinioni con maggiore libertà. Pagina 3 della Stampa, l'intervista di Mario Calabresi a Montezemolo. In realtà il farà politica è un po' quel dubbio, insomma, che molti giornali, anche Libero per esempio, con un articolo di Fosca Binker, che poi altri non è che Franco Bechis, il suo vice direttore. Luca smentisce ma poi si fa scappare, ora potrò esprimere certe opinioni, l'ha detto anche adesso nell'intervista a Mario Calabrese alla Stampa. Insomma, il ruolo politico col punto di domanda è quello che tutti si chiedono, anche perché poco tempo fa è nata una fondazione, uno di quelli che si chiamano think tank, pensatoi, proprio voluto da Montezemolo, vale a dire Italia Futura. Oggi tra l'altro è un giorno importante per la Fiat, perché, come scrive Andrea Malan a pagina 5 del Sole 24 Ore, è appunto il giorno in cui verrà presentato il piano strategico per i prossimi 5 anni da Sergio Marchionne. Che cosa si prevede oggi? Oggi, scrive Andrea Malan sul Sole, potrebbe essere la presentazione di un piano industriale separato per l'auto e per il resto del gruppo. Ciò aiuterebbe il mercato a farsi un'idea più precisa delle potenzialità delle due metà con orizzonte 2014. Difficilmente oggi Marchionne annuncerà invece i tempi esatti e modalità di un'eventuale operazione di mercato, mentre per quel che riguarda la parte più industriale del piano, le anticipazioni, sia per quel che riguarda l'auto che per gli altri settori chiave, Marchionne ha lavorato quasi esclusivamente con i suoi top manager. Per l'auto, scrive Malan, l'obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere 5,5 milioni di unità tra Fiat e Chrysler, che sarebbero, secondo Marchionne, la garanzia di indipendenza in lungo periodo. Per quel che riguarda le sfide, al gruppo americano Chrysler toccherà il compito più difficile, quello di aumentare le vendite in 5 anni da 1,3 a 2,8 milioni. Che ha detto il ministro Scajola, che ieri ha parlato con Marchionne? Il piano, visionato evidentemente dal ministro, è coraggioso e confermerà gli elevati investimenti previsti per gli impianti italiani. Da parte dei sindacati, scrive sempre il Sole, c'è attesa, sì, auguri a John Elkann, ma attesa per capire, insomma, oggi il piano industriale che cosa prevede, che cosa verrà presentato da Marchionne, e quindi aspettare un attimo prima di mettere le due notizie, le dimissioni, la successione e il piano industriale oggi, prima dei commenti. CGIL, CISL e UIL, sindacato sceglie una posizione attendista. Insomma, comunque trovate moltissimo ovviamente di commenti e di analisi di quello che è, di quello che significa questa successione a capo del gruppo Fiat, sui giornali ovviamente, in particolare, come detto, sul Sole 24 Ore. L'altra notizia del giorno è quella della politica. Allora, perché domani è il giorno chiave della direzione del partito Fini-Berlusconi, e tra l'altro se ne occuperà Oscar Giannino alle 9, quindi rapido sguardo a che cosa propone oggi il menù. Fini ha deciso, lancia la sua corrente, c'è un Berlusconi, scrivono su Repubblica, ma non solo su Repubblica, infuriato. Cavaliere chiude la porta a Gianfranco. Ha perso la testa, si faccia un partito. Molto meglio trattare con un partito, scrive Francesco Bei. A pagina 3 sono i soliti retroscena, virgolettati, attribuiti a... Non è che sono dichiarazioni ufficiali. Molto meglio trattare con un partito, avrebbe detto Berlusconi, che con una persona che ha perso definitivamente la testa. Questo avrebbe detto. Tra l'altro... anche su Libero c'è un editoriale molto duro di Belpietro, il direttore, che dice: Silvio, non cascarci, conviene farla finita. A questo punto sta a Berlusconi decidere se tenere al suo fianco un politico vecchio, se non dal punto di vista anagrafico, di sicuro nel modo di agire, perché Belpietro dice, insomma, è uno come la vecchia DC. Un rivale interno che avrà come principale occupazione quella di rendere la vita difficile al partito, alla maggioranza, al governo, oppure se non sia meglio abbandonare Fini alla corrente che lo sta portando fuori dal PDL. Anche per la Stampa l'ira del cavaliere. E sapete chi ha fatto in qualche modo da pompiere, riuscendo un po' a spegnere l'animo molto incandescente pare di Berlusconi nei confronti di Fini, la Lega, proprio la Lega che è secondo molti il pomo della discordia, quella che la cui affermazione elettorale avrebbe fatto discutere per contrappesi, controbilanci di potere, Fini con Berlusconi. La Lega, ieri Calderoli, Maroni, Rosi Mauro erano in via del plebiscito con Berlusconi, una delegazione leghista a raffreddare i venti di crisi, scrive Ugo Magri sulla Stampa. Stavolta Fini dovrebbe ringraziare Bossi, perché è proprio il leader della Lega a tenere Berlusconi per le braccia, a impedirgli di scatenarsi contro il presidente della Camera. Pare Berlusconi furioso ieri. Qualcuno diceva, si aggirava, lo leggevo anche su Libero, a dire a questo punto, o forse il giornale, a questo punto meglio le elezioni. Insomma, Berlusconi molto molto arrabbiato con Fini. Allora, l'altro tema che trovate, vabbè, c'è molto sulle intercettazioni, la legge sulle intercettazioni molto lentamente continua a fare passi. Sapete che è stata messa il divieto di intercettare se non ci sono gravi indizi di reato. Questa è una cosa che insomma aveva chiesto fortemente l'opposizione. Però che cosa succede? Spunta un nuovo giallo. È già stata definita la norma D'Addario, viene definita così da Repubblica, da Manifesto, insomma da chi è ovviamente l'ha definita, l'ha battezzata così il democratico, il PD del PD Felice Casson. La norma D'Addario, cioè carcere da 6 mesi a 4 anni per chi riprende o registra fraudolentemente chi ha di fronte. Cioè, per chi fa una registrazione di una conversazione senza che l'interlocutore lo sappia. Potevano scriverci anche divieto di farlo a Palazzo Grazioli, ironizza appunto Felice Casson del PD. Sul Manifesto è definita così, spunta la norma D'Addario, l'emendamento D'Addario, carcere fino a 4 anni per chi registra senza essere autorizzato. È il comma anti-D'Addario, questo dice l'opposizione. C'è anche un'intervista al PM Ingroia di Palermo su Repubblica che dice il testo è anticostituzionale, indagare così sarà più difficile. Insomma, c'è grande fermento per chi si interessa, insomma, di cosa bolle in pentola della politica delle intercettazioni, anche se io non ci volevo credere, ma la cosa che più fa discutere pare che sia la comunione che Berlusconi ha ricevuto ai funerali di Raimondo Vianello. Berlusconi ha commesso un sacrilegio, così è un'intera pagina del Fatto Quotidiano che ieri metteva in prima pagina Berlusconi che riceveva l'ostia e quindi riceveva la comunione alla messa ai funerali di Raimondo Vianello. Da lì è nato un dibattito, ma come Berlusconi che è divorziato e risposato, questo per la Chiesa vuol dire che non si può ricevere la comunione, si commette peccato. Berlusconi ha commesso un sacrilegio. Libero oggi risponde, Libero, in prima pagina, Luigi Sant'Ambrogio. Eccolo, c'era da aspettarselo, la sinistra bigotta e moralona, prevedibile come i riflessi dei cani pavloviani. Eccoli, Torquemada d'Antan, nei panni immacolati dei sommi sacerdoti, si stracciano le vesti e mettono mano alle pietre contro il cavaliere bestemmiatore perché osò accostarsi all'altare e deglutire indegnamente il corpo di Cristo. Tra l'altro Luigi Sant'Ambrogio dice un po', sì è vero, è un po' una vicenda con uno stile berlusconissimo, quello del "ghe pensi mi", cioè ha voluto risolverla così, anche perché non è la prima volta. Molti ricordano di quando 4 anni fa, giugno 2006, nella chiesa di Porto Rotondo, Berlusconi rinuncia alla comunione, rifiuta l'ostia dalle mani del vescovo, anzi gli dice: lei che ha potere si rivolga a chi è più in alto di me, gli disse Monsignor Sanguinetti, perché vengano cambiate le norme sui divorziati. Alludeva ovviamente il vescovo al Papa, perché la vicenda è dipanata in un'intervista intera al Messaggero di Monsignor Fisichella. La comunione, in realtà, Fisichella dice può farla. Attenzione, questa sarebbe la diatriba risolta da Monsignor Fisichella: senza più Veronica il Premier può fare la comunione. Perché la vicenda è questa: i divorziati che si sono risposati una seconda volta civilmente non possono accostarsi al sacramento. Era così ed è così tuttora. Non è mutato niente. Dunque, se uno è divorziato e si risposa civilmente, vive nel peccato per la Chiesa, non può ricevere la comunione. Se il presidente del Consiglio, prima di accostarsi all'ostia, era nella condizione di poterla prendere, vale a dire si era prima confessato, nulla glielo vietava. Il sacerdote non doveva mandarlo via. E come? Scusi, chiede Franca Giansoldati. Per la Chiesa è in una situazione irregolare. No, attenzione, facciamo chiarezza. Berlusconi si è separato dalla seconda moglie, vale a dire Veronica, con la quale era sposato civilmente, e quindi tornato a una situazione, diciamo così, ex ante. Il primo matrimonio era matrimonio religioso, è il secondo dal punto di vista canonico che creava problemi. È solo al fedele separato e risposato che è vietato comunicarsi, poiché sussiste uno stato di permanenza del peccato. Ma se l'ostacolo viene rimosso, cioè siccome adesso è separato da Veronica, allora nulla osta e può ricevere la comunione, perché si è tolta la situazione di peccato secondo la Chiesa. Vi sta bene come spiegazione? Abbiamo chiarito una volta per tutti se Berlusconi può ricevere o no la comunione? Ecco qui. Allora, voglio andare al Sole 24 Ore, ma c'è anche sulla Stampa, per questa segnalazione che trovate, abbastanza incredibile. La trovate al Sole 24 Ore, a pagina 31, sulla Stampa, a pagina 23. Demolizioni in Campania sospese con decreto legge. Nel pre-Consiglio dei Ministri, e dovrebbe dunque approdare nel Consiglio dei Ministri di venerdì o giovedì, che cosa c'è? Un nuovo provvedimento d'urgenza di 3 articoli, sarà venerdì poi il Consiglio dei Ministri, nella quale si chiede la sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle demolizioni degli immobili abusivi nella provincia di Napoli, in particolare di quelli situati sull'isola di Ischia. Ricordate che gli abitanti di Isola di Ischia avevano fatto anche delle mobilitazioni contro la demolizione di immobili abusivi, chiaramente abusivi, ma barricate, scontri con la polizia. Ora pare che il primo provvedimento, anche in visione per la nuova regione Campania, nel senso la guida Caldoro, sia proprio questa. La Campania grazie alle ville abusive. Questo è il titolo della Stampa. Il governo prepara un decreto per bloccare le demolizioni ordinate dalla Procura e Caldoro pare che stia mettendo a punto un qualcosa per appunto bloccare questa demolizione. Tra l'altro la Stampa fa ricordare che l'abusivismo, soprattutto in Campania, è un problema gravissimo. Pensate che a San Cipriano d'Aversa, terra simbolo dei casalesi, ci sono 1380 abitazioni abusive. Siamo a San Cipriano d'Aversa, 1380 abitazioni abusive. Bene, sappiate che sono più le abitazioni abusive della sola San Cipriano d'Aversa di quelle di tutta la Francia intera. Questo è il problema dell'abusivismo in Italia. Ci sono più abitazioni abusive nella sola San Cipriano d'Aversa, che è un comune piccolo, che nell'intera nazione della Francia. A proposito di Francia, visto che siamo alle segnalazioni conclusive, dalla prima del secolo XIX Nicolas Sarkozy ha deciso, in un discorso alla banlieue parigina, di fare qualcosa di duro contro chi bigia a scuola. Tuo figlio bigia a scuola? E che facciamo noi? Vi togliamo l'assegno familiare ai genitori dei ragazzi che marinano la scuola. La discussione che in Francia sta facendo molto discutere, bigi la scuola, assegni familiari stop, soluzione repressiva da parte di Sarkozy, che ha annunciato questa misura. Vabbè, magari fa poco discutere perché è in Francia, ma certo, fosse in Italia farebbe molto molto più discutere.